generate me. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, tearing his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graves. No one was saved, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Un applauso ancora alle Ice Cream che stasera ci faranno compagnia. Ancora una volta sono molto felice di poter introdurre e moderare un incontro con Andrea. Per chi non lo conoscesse, Andrea Gozzi è un musicista e musicologo, professore tra l'altro a sound design all'ABA di Firenze. Insegna rock anche al DAMS, sempre a Firenze, e da qualche anno ha intrapreso anche la carriera da scrittore, dal 2014, quando è uscito il suo primo libro, Appunti di Rock. Da quel momento si è trovato bene in questi panni da scrittore, è andato avanti. Quest'oggi siamo qui a presentare il libro che si chiama Insta Rock. Come suggerisce il nome, sono delle istantanee, no? Di vari argomenti legati sempre alla musica rock, che arriva appunto dopo la trilogia di Appunti di Rock. Cosa hai ripreso dalla vecchia trilogia e cosa differisce questa nuova avventura? Innanzitutto chiederei un applauso per Stefano Meciani, che come sempre introduce le chiacchiere e modera questi incontri, con piacere tra l'altro. Buonasera a tutti, appunto sì. Questo libro si chiama Insta Rock, racconta un po' di alcune storie del rock e in che modo. Per chi magari ha visto qualche presentazione, quindi lo saprà sicuramente, non è la prima volta che sente questo, però l'idea che sta alla base di Insta Rock come di Appunti di Rock, che è una trilogia di libri precedente, riguarda l'idea di raccontare la storia del rock ma per vicende singole e molto personali. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono storie del rock molto complete, molto larghe, molto lunghe, in cui però c'è sempre qualche cosa che sta fuori, qualche aneddoto, qualche particolare, quelle che sono poi le cose più interessanti fondamentalmente. Se invece si restringe il campo, si parla con un taglio ben preciso e ben netto di qualcosa di particolare, si può andare più a fondo e si può trattare gli argomenti in maniera molto più approfondita. Un esempio, se quello abbiamo deciso di portare avanti in questi libri e di dividere i capitoli secondo quelli che sono gli argomenti da trattare, ad esempio una canzone, un album, un tour, un momento particolare di un artista e così via, oppure un concerto, proprio quel concerto in cui succede qualcosa di particolare, come ad esempio il festival di Altamont organizzato dai Rolling Stones, una sorta di, no, festival ad personam, si direbbe in questo caso. E quindi raccontare soltanto quell'evento, soltanto circoscrivendo quell'evento, si può parlare di cose che magari in una storia del rock rimangono un po' fuori, un po' a margine, che invece servono per dare, insomma, gusto poi alla cosa. In questo in Star Rock abbiamo trattato di vari gruppi in maniera molto eterogenea. In che modo? Ci sono gli AC/DC, c'è Jeff Buckley, c'è, ci sono i Green Day, Jimi Hendrix, Jethro Tull, Rainbow, la PFM, Peter Gabriel e i Genesis, John Lydon e Public Image Limited, Blues Brothers, quindi cinema incontro la musica e viceversa. Monsters of Rock, grandissimo festival del 1991 in Unione Sovietica / Russia, che un momento era quello, e gli Oasis. Perché questi gruppi e come vengono affrontati? Innanzitutto, appunto, si parla di un argomento specifico, una canzone, un album e così via. C'è anche un multicapitolo, una cosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora, è quella di dischi che non sono mai usciti, perché non esce un disco, vengono realizzati, sono lì pronti per essere usciti, per farli uscire, e non escono mai. Perché? Qui ci sono tre motivi differenti, ad esempio, trattiamo di AC/DC, Jeff Buckley e Green Day. Nel caso dell'AC/DC è una scelta decisamente di mercato, non fare un best of. Non l'hanno fatto, si sono imposti contro la casa discografica, succedeva un tempo anche questo, oggi molto meno, in cui il gruppo decide di non far uscire questo best of perché far uscire tanti dischi con canzoni differenti sarebbe, nella loro idea, avrebbe significato vendere più dischi, no? E così poi è stato. Back in Black dell'AC/DC è non soltanto è uno dei dischi più venduti della storia del rock, ma anche uno dei dischi più venduti in assoluto, perché tutt'oggi nel catalogo dell'AC/DC non esiste un best of. Quindi l'idea era di fare uscire, appunto, un lavoro che raccogliesse già nei primi anni della carriera i migliori pezzi più famosi del gruppo, e invece poi si sono imposti e non è uscito, però rimane lì. C'è qualche copia, appunto, sul mercato che costa tantissimo per perle, per i feticisti, i collezionisti in questo caso, ma è rimasto lì. Nel caso Jeff Buckley, per chi non lo conosce, appunto, di voi, male, ascoltatelo, venne fatto uscire un album postumo, perché a me Jeff Buckley venne a mancare, per chi, insomma, non lo sapesse, e quindi è giusto far uscire un album postumo quando l'autore non ha il completo controllo sulla propria opera. Tra l'altro, queste erano delle bozze, si chiama Sketches from a Harder Drunk, quindi sketches, bozze. C'è il fan che dice sì, certo, è sicuramente un materiale in più sul quale potersi confrontare, ascoltare, c'è chi magari era più vicino, appunto, al grande musicista, dice sì, vabbè, ma queste sono cose che ha buttato giù, poteva fare decisamente ben altro in questi brani. E poi c'è il caso dei Green Day, che è un caso molto divertente, in cui un disco non esce perché è brutto. In che modo? Spendono tutti i soldi in un disco che doveva uscire e doveva essere il grande ritorno sulle scene di questo gruppo, che con un album che era Warning, che era piaciuto a pochi, era piaciuto veramente sia un poco alla critica, che aveva venduto pochissimo, in più loro stavano parlando tramite avvocati, insomma una situazione molto difficile, vanno a registrare questo album che deve essere, appunto, il proseguo di una carriera, il rilancio di questa carriera incredibile. Lo registrano, ci spendono un sacco di soldi, tutti quelle che l'etichetta mette a disposizione, e poi si rendono conto, ascoltandolo il produttore, che fa schifo. E quindi semplicemente come fare per riuscire a ottenere altri soldi? Attenzione, è una cosa che questa si sa da pochi mesi, non è una cosa che si sapeva prima. Prima la voce che circolava era quella che quest'album era stato rubato. 2003. Ora capite che, insomma, è un po' strano che in un posto come può essere Los Angeles, in uno degli studi più importanti del mondo, scompaiono degli hard disk. Comunque, più o meno se la sono bevuta, e hanno poi lavorato su quello che è stato American Idiot, che sappiamo tutti poi che album è diventato e quanto ha venduto, è diventato una sorta di referenza, no, in questo senso. Quindi interessante notare queste piccole storie che stanno dietro alla produzione degli album, che sono poi, appunto, in tre modi differenti per affrontare, ad esempio, questo tipo di problema. Questo è un taglio dei tanti che trovate all'interno di Star Rock. Oltre a essere multicapitolo, molto eterogeneo, e a varia firma, è una sorta di compilation, non soltanto per gli argomenti che si affrontano e come si affrontano, ma anche perché ci scrive. Non sono infatti l'unica firma di questo libro, ce ne sono altri, c'è Alessio Dell'Esto, Michele Manzotti, Lorenzo Mortai, Donato Zoppo, Mario Palmieri, Michele Mingroni, Virginia Bardoni e Jacopo Salvadori e Pierpaolo Capovilla. cantanti del teatro degli orrori. Ho la fortuna come musicista, come musicologo, di conoscere tanta gente in qualche modo inciampa nel mondo della musica su progetti vari. Quindi mi sono guardato un po' intorno, ho deciso di mettere su questa squadra molto eterogenea di pazzi e folli che però hanno un amore per la musica spassionato in maniera diversa. C'è il giornalista, c'è il musicista, c'è il professore universitario, tutti con un taglio molto differente. Chiaramente il racconto accademico che viviseziona un album dei King Crimson è differente da quello che racconta il Festival di Altamont e quello che accade. Però l'idea è esattamente questa qui. È molto più difficile mettere insieme le persone che scrive. Se sei da te davanti alla pagina, appunto, butti giù qualcosa, trovi un momento libero, di solito la notte, perché tra chi ti scrive, tra chi ti chiama, WhatsApp, Facebook, email, cose, lavoro, eccetera, eccetera. Finalmente arriva un certo punto della notte in cui nessuno ti disturba più, allora a quel punto lì puoi immergerti in questa cosa. Devo essere sincero, a me fa molto piacere fare questo perché è un modo per me anche di buttarmi dentro un mare magnum di interessi personali. Infatti la cosa difficile non è tanto scriverlo, ma ridurre quello che si scrive. Perché una volta che ti butti in un progetto del genere, ci sono dei nomi che ritornano. Magari stai studiando qualcosa relativo a un periodo, non so, Hendrix, inciampi molte volte in quel nome e vuoi sapere chi è quella persona. Quella persona ti porta ad un'altra ancora. A un certo punto ti trovi da un'altra parte e non sai nemmeno dove eri partito. Su questo appunto bisogna un po' tagliare. Viceversa, sul livello della tempistica, cioè qualcuno si dilunga un po' di più, qualcuno ti scrive magari un mese dopo, devo mandare il capitolo. Allora, questo come in tutte le cose, avere a che fare con più persone è dal punto di vista gestionale più difficile, ma sicuramente il lavoro di un gruppo che lavora su un progetto con una stessa idea ti porta da un'altra parte che non è assolutamente quella che raggiungeresti se tu fossi da solo. Another turning point, a force that came the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So take the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learning time. Something unpredictable, in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and hang them in your mind. Hang them on a shelf in good and a good time. My own memories and that skin on a trial. For what it's worth, it was worth all the time. Something unpredictable, in the end it's right. I hope you had the time of your life. Fosse curioso di ascoltare il disco di Green Day, che non era assolutamente interessante. Se cercate su YouTube, il gruppo si chiama The Network. Sembrano i Green Day, che fanno fondamentalmente i Green Day con qualche tasterina in quella, ma si riconosce decisamente la voce di Billy Joe. gruppo The Network, lo trovate appunto su YouTube, eccetera, eccetera, e capirete che perché hanno deciso di cancellare quell'album. A proposito dei gruppi anni 90, poco prima dei Green Day, sono saliti alla ribalta un gruppo che, diciamo, a te sta molto a cuore, no? Che sono gli Oasis. Infatti il capitolo in questo Insta Rock è scritto proprio da te in prima persona. Spesso però gli Oasis non sono visti come un gruppo, no? Diciamo, da Hall of Fame, no? del rock and roll. In realtà da questo capitolo che ti hai scritto viene fuori quasi un gruppo leggendario, se vogliamo. Sì, questa in realtà è una cosa molto italiana da un punto di vista e anche un po' americana, perché gli Oasis non hanno mai sfondato in America, però hanno scritto alcune delle canzoni più importanti nel rock di tutti i tempi, e questo purtroppo, o per fortuna, al di là di quello che ne pensate voi, non sono assolutamente io a dirlo, ma è la storia di questa musica. E spesso comunque succede questo: chi guarda chi, quali sono i gruppi che sono all'interno di questo libro, no? AC/DC, Public Image Limited, i Blues Brothers, quindi in questo caso è un film, Jethro Tull, eccetera, eccetera, poi dice, perché ci ha messo gli Oasis? Innanzitutto c'è anche qualche mio amico che odia questo gruppo, quindi questa è dedicata decisamente a te. E, il motivo è duplice. Innanzitutto, qui si parla di una canzone, che è Wonderwall, una canzone che in quegli anni, per un gruppo di quel genere, era un qualcosa di completamente alternativo, se mi passate il termine. Perché? Perché questo gruppo esce con il disco di debutto più venduto nel Regno Unito, passerà poi la palma di questo contributo a un gruppo che si chiama Arctic Monkeys qualche anno dopo, però fino a quel momento Definite Maybe degli Oasis è il disco più venduto all'esordio di un gruppo inglese, di tutti i tempi. Perché? Perché è un gruppo che si trova nel posto giusto, al momento giusto, e parla di cose con forma e contenuti che riguardano l'Inghilterra di quegli anni. Se qualcuno di voi è stato in Inghilterra tra il 94 e il 2000, si ricorderà principalmente due cose: Eric Cantona e gli Oasis erano spalmati su tutti i muri d'Inghilterra. Un personaggio appunto francese, in questo senso piuttosto spaccone, strafottente, come piace l'inglese e come sono molti dei mancuniani, appunto, gli abitanti di Manchester, e gli Oasis dappertutto. Perché? Perché rappresentavano una sorta di Nick Corby musicale. C'era un po' di calcio, c'era un po' di rock, c'era questa voglia di un proletariato inglese che veniva da anni di Thatcher e voleva tornare in qualche modo protagonista. Gli Oasis sono questo, sono un gruppo di ragazzi che, partendo dal bassissimo, strafottenti e prendendosi letteralmente a testate concerto dopo concerto, riescono a conquistare appunto le classifiche, semplicemente quello che nella maniera più semplice che dovrebbe fare un gruppo quando fa musica, facendo musica. Non ci sono ancora talent in quegli anni, sono anni in cui si fa musica per fare musica, non musica per fare successo, che è un'altra cosa. Il successo poi è un evento correlato in questo caso, e quindi fanno breccia subito nel cuore degli inglesi questi due fratelli molto particolari, il perché hanno questa importanza poi nella storia del rock è perché sono riusciti più di altri gruppi in quegli anni a tagliare trasversalmente il pubblico. Un brano come The Look Back in Anger, dopo gli attentati di Manchester di qualche anno fa, divenne una sorta di inno fortissimo, una canzone che si canta negli stadi, è diventata ormai una canzone prettamente non inglese, ma che rappresenta un po' il popolo in quel senso. Quindi è riuscita a tagliare tutti, la canta da chi va allo stadio, ai bambini alle scuole, a chi magari sbronzo nei pub. Quindi quando tagli in questo modo tutti e fai rock, vuol dire che hai centrato veramente l'obiettivo nella misura in cui hai scritto una canzone che rimane epocale. Quindi nel caso di Wonderwall scrivono questa canzone, che è una canzone in realtà suonata, che inizia con una chitarra acustica. Strano per il gruppo in quel periodo. Il gruppo in quel periodo faceva un rock and roll piuttosto acido, non roba da pub in cui si parla di sbronzarsi, fumare, bere, insomma, a 20 anni, se quello è il tuo orizzonte, quello che fai, racconti di quello che vivi tutti i giorni. Loro vivevano in quel modo lì. Con il loro secondo disco, appunto, What's the Story, Morning Glory, capiscono che c'è vita oltre il pub il sabato sera da sbronzarsi lì, ma si può fare, si può pensare anche cose differenti. Ecco, e viene fuori questo brano. Un brano molto scarno in realtà, con un video decisamente sognante. c'è tutta una serie di giochi, ad esempio sugli strumenti, ci sono nel video ci sono delle ragazze che sono dei violoncelli, in realtà il violoncello è uno strumento che non esiste nel brano, perché viene suonato un mellotron, che è uno strumento che fa finta di essere un violoncello. È un l'antesignano del campionatore. Fermiamoci qui, poi se vi interessa trovate tutto questo scritto nel dettaglio all'interno del libro. Però, esatto, è comunque è un brano atipico. Atipico anche perché è un brano, forse uno dei primi, in cui c'è soltanto una voce, che è la voce del cantante Liam Gallagher. Di solito il fratello Noel, quello che suona la chitarra, che scrive la maggior parte dei pezzi del gruppo, faceva i cori. Ha una voce molto più bella di Liam, che è il cantante, proprio bruttarello, poi basso, c'ha i ciglioni, insomma, come frontman non va bene, meglio quell'altro. Però facevano tutta una serie di cori. Non fa i cori in questo brano perché questa scelta è figlia di una diatriba tipicamente appunto Oasis e tipicamente rock. Cosa succede? Succede che Noel Gallagher, l'altra voce, si rende conto che questo brano è molto bello. Questo è Doug Benkinger. Beh, per chi scrive i brani di solito te ne rendi conto quando ha scritto una cosa bella rispetto a una cosa media. E quindi Wonder What Look Back in Anger si rende conto, Noel Gallagher, quello con ciglioni, basso, bruttarello, che, ma molto bravo, che ha scritto veramente dei capolavori. Quindi va dal fratello e gli fa, senti, facciamo una cosa, tutto il resto dei brani te lo canti te, questi me li canto io. Ovviamente scatta una lite furibonda, alla fine si accordano, un leggerissimo compromesso. Va bene, Wonder What la canti te, ma io non ti faccio cori, The Look Back in Anger la canto io, va bene. Nel momento in cui registrata Wonder What, vanno a registrare The Look Back in Anger, Noel sta registrando quando dall'altra parte del studio di registrazione vede che succede, stanno succedendo delle cose. Per chi di voi, insomma, penso tutti sappiate come funziona lo studio di registrazione, una sorta di acquario. Te stai dentro una stanza, c'è un vetro e vedi di là c'è qualcuno che di solito parla malissimo di chi sta registrando, dice va bene, abbiamo sbagliato anche questo, no? Di solito funziona più o meno così, no? E quindi cosa succede? Succede che Liam, per semplicemente dare noia al fratello che stava registrando quel disco e quel brano in particolar modo, se ne va al pub, raduna una serie di ubriaconi locali che non conosceva, se le porta in studio, iniziano a mettere i piedi sul mixer, a buttare la birra per terra, eccetera eccetera. Noel, arrabbiatissimo, esce, scatta una lite furibonda, sono un mazzo da cricket spaccate in testa, non so, mi ricordo esattamente chi è chi, e Noel se ne va via in macchina con il batterista, che è entrato nella band da 2 settimane, dice, ma quindi? È finita? E Noel risponde, no, qui è così quasi tutti i giorni, quindi abitati. E questo, la vita di questo gruppo è costellata di questi episodi continui. Una grande tensione, appunto, non soltanto creativa, ma personale, di due fratelli che, da condividere la stessa cameretta, vanno a condividere poi il palco e poi il successo planetario e i miliardi. Molto interessante a questo punto di vista. Una tensione che l'ha sempre portata avanti fino a che poi non si sono prese a chitarrate letteralmente in testa e il gruppo poi è finito. Negli ultimi anni ho notato che, anche in realtà nella tua ultima presentazione del libro, è venuto fuori un argomento molto interessante, no? Si parla spesso di quote rosa. Approfitto tra l'altro della presenza dell'ice cream, che sono pieni di quote rosa, per chiederti come mai, secondo te, nel rock and roll il genere femminile spesso messo un po' in disparte. Innanzitutto, se sei d'accordo con questa affermazione, e se sì, perché? Purtroppo sì. Purtroppo il rock è decisamente un genere machista, sessista per eccellenza, ma se si pensa all'ideale di gruppo da questo punto di vista che incarna questo esempio, sono le Zeppelin, no? Cantanti, sono un gruppo di maschi, quindi, no? Il cantante dio dorato, come si dice, come dice il protagonista, in Almost Famous, perché di voi l'ha visto, e chi non l'ha visto lo guardi, è un bellissimo film, del 2000, di Cameron Crowe, quasi famoso, è stato tradotto in italiano, in cui però appunto il ruolo della donna è relegato ad una funzione ben precisa, è quella di groupies. Ora non so qual è il maschile di groupies, groupie? Fenici? No, sfenicius. Quindi ecco, diciamo che questo esiste, e ahimè purtroppo è così. Ci sono però alcuni sottogeneri del rock in cui questo non accade, in cui il ruolo della donna non è semplicemente quello di abitare luoghi intorno a quelli concerti. Ovviamente, partendo dal presupposto che ci sono tantissime storie di donne in rock importantissime, ne cito qualcuna così proprio su a dritto, no? Da PJ Harvey a Janis Joplin, Björk, anche se proprio precisamente rock non è, però, per capirsi, ma c'è un sottogenere appunto in cui la presenza femminile è molto più forte, e questo genere è il punk, per tutta una serie di cose. Il punk è una musica in cui non ci si fa troppi problemi su tante cose, quindi è molto più inclusiva. E in particolar modo, se voi ci pensate bene, c'è un sottogenere del sottogenere, il punk rock degli anni 90, appunto, quindi il grunge, chiamiamolo così, in cui tantissimi sono gruppi a presenza femminile. E, quello, e questa è una cosa importantissima. Anche qui, cito a memoria, il Seven Breeders Dickless, nome o meno. Esistono, ci sono gruppi molto interessanti, è tutta un'altra sensibilità rispetto a quella maschile. Però chiaramente se si pensa Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Who, e poi è sempre interessantissimo questo meccanismo, no? Gli Who, che hanno sempre scritto musica enorme, sono una montagna della storia del rock, erano bruttarelli, quindi ai concerti inizialmente ci andavano soltanto ragazzi, non lo dico, lo dicono loro in una loro storia, e poi si ispirano poi ad altri, no? Un momento in cui Robert Plant diventa il simbolo di questa, di essere maschi sul palco, quindi capello lungo, camicia aperta, pacco in evidenza, tutto il resto, che poi questo modello poi viene portato avanti e ridicolizzato, portato fino all'eccesso. Basti pensare al glam, ad esempio David Coverdale, cantante di Whitesnake. Ecco, Whitesnake vuol dire serpente bianco, no? Siamo capiti a cosa allude. Quindi tutta quella roba là viene portata e estremizzata in questo genere, che per fortuna poi a un certo punto viene segato di netto dall'avvento del grunge, quindi tutine, spray per capelli, lacche varie, eccetera, eccetera, brillantini, me ne ho messi un po' da parte. Però all'interno di questi libri ci sono molte storie che riguardano donne nel rock. Avevamo pensato inizialmente di fare un capitolo dedicato in questo senso. Siamo tornati subito a retromarcia indietro, perché sarebbe stato ghettizzare questo argomento, e è sbagliatissimo. Quanto invece è molto più importante raccontare di quelli che sono alcuni personaggi importantissimi in questo senso. Come ad esempio Bjork, analizziamo in appunti di Rock Duo, che trovate qui insieme agli altri, Hyperballad, uno dei suoi brani più famosi. Un altro argomento che torna spesso nei tuoi libri è quello dell'anglofonia, o comunque il migliore adattamento della lingua inglese alla musica rock. Spesso nei passati appunti di rock hai parlato di come in realtà poi il rock italiano non riesca a sfondare, no? Non riesca a proporsi in maniera vincente anche all'estero, ad eccezione forse di un gruppo in particolare di cui racconti il nuovo Insta Rock, che è la PFM, che vale un po' la conquista degli Stati Uniti. Allora, di solito sì, il rock è, si sa, nel bene e nel male, anglofono e anglofilo. I gruppi più importanti di questo genere sono ovviamente inglesi e americani. Ci sono però tutta una serie di gruppi che appartengono a quello che è l'immaginario non anglofono, che sono veramente molto interessanti. Per questo, in questi libri, da Appunti di Rock a Insta Rock, abbiamo inserito varie storie. Ad esempio, nel primo Appunti di Rock si parla dei Noir Désir, un gruppo francese che in Italia pochissimi conoscono, ma con una storia incredibile, con canzoni bellissime che ho scoperto grazie a un autore che ha prodotto in Italia l'unica biografia di questo gruppo, si chiama Sasha Naspini. Quindi se siete interessati all'argomento, né vincitori né vinti di Sasha Naspini, ripercorre tutta la vicenda di questo gruppo in maniera anche molto sentita, perché è un autore che ama tanto questo gruppo e si sente. In Appunti di Rock 2 abbiamo invece intervistato CSI, un gruppo italiano che fa rock ma non solo. In Appunti di Rock 3 invece il Teatro degli Orrori. In questo abbiamo parlato di PFM. Interessante, Donato Zoppo, che è un saggista musicale tra i più importanti in Italia, ci ha fatto questo regalo di un capitolo incredibile in cui ha raccontato cosa succede appunto a un gruppo italiano che se ne va in quegli anni negli Stati Uniti a fare un tour. Non c'è la possibilità ovviamente di sapere prima cosa succede, cosa potrà succedere, no? Oggi sai che devi andare a suonare in quel posto, vai su Facebook oppure digiti quel locale, vedi il locale come è fatto, la tipologia di pubblico, ah vabbè, domani ci saranno tot persone più o meno di questa tipologia, di questa età, no? Mentre invece in quel periodo non lo sai, e fu un po' gettarsi nel vuoto, però con un paracadute gigantesco. Questo paracadute si chiamava Frank Barzalona, che era un manager, si occupava di tournée negli Stati Uniti, e fu il lasciapassare per il successo di tantissimi gruppi. Quando si parla di successo per i gruppi di questo periodo, ma non soltanto, si parla non solo di musica, ma si parla anche e soprattutto in alcuni casi di management. Le scelte manageriali sono importantissime. Perché le Zeppelin sono più importanti dal punto di vista storico di un gruppo come Deep Purple? Per le scelte che hanno fatto. Non andare a quel concerto, fare quella cosa, non fare l'altra, non cambiare mille volte i musicisti che compongono quel gruppo, eccetera, eccetera. Non fare. Scegliere di non fare a volte è più importante di fare delle cose. Ad esempio, nel caso delle Zeppelin, le Zeppelin non vanno al Festival di Woodstock. Decidi di non andarci perché andiamo a prendere soldi da un'altra parte, così quando poi ci chiameranno avranno ancora più, eccetera, eccetera. La PFM si ritrova negli Stati Uniti con un'idea fortissima che è quella della rivolta e dei movimenti nati a Berkeley. Trovano invece un popolo che è moltissimo legato all'idea del capitale e questa cosa non va tanto bene da alcuni membri della PFM. Per questo poi torneranno in Italia, ritorneranno in America varie volte, però a un certo punto prenderanno le distanze. Questo Frank Barzalona, responsabile del successo di gruppi come U2 e le Zeppelin, aveva messo il gruppo su una rampa di lancio per arrivare ad essere the next big thing, come dicono gli americani, no? E è interessante nel racconto di che fa Donato Zoppo, prendendo alcune interviste in qua là, il racconto di come un gruppo da perfetti sconosciuti può arrivare a fare delle cose differenti. Divide una sorta di piccola classifica all'interno dei concerti. Nei concerti dice che c'è sempre, in prima fila, il top of the bill. Top of the bill sarebbe quel gruppo che è colui per il quale si va al concerto. Prima del top of the bill si presenta lo special guest. Lo special guest è quello che magari è una vecchia gloria, che non suona più tanto, però lo metti lì a riempire il buco, qualcuno ci va a ascoltarlo. L'opening act è invece l'apertura del concerto. E poi, diciamo, rompere il ghiaccio, la band locale in cui si porta un po' di loro amici e già così si parte bene. La cosa difficile è passare da opening act ad arrivare a top of the bill, e questo la PFM nel primo tour che fanno negli Stati Uniti ci riescono non soltanto perché Frank Barzalona li mette nei posti giusti, ma se lo conquistano grazie alla loro musica. Sceglieranno poi di non fare questo e di continuare la carriera americana proprio per questo motivo. In particolar modo Pagani decide di era uno dei più contrari a questa visione, insomma, della vita negli Stati Uniti. Però è interessante vedere appunto come, poi anche ponendosi dal punto di vista della lingua, decidono di fare cose differenti, quindi non cantare più in italiano, ma in quel caso siamo negli Stati Uniti, beh, si canta allora in inglese. Quindi rifacendo appunto da capo, introducendo l'inglese in questi brani. La questione della lingua è sempre molto complicata. Quello che viene fuori un po' da questi studi che abbiamo fatto negli anni è che gli elementi più interessanti quando sono fuori dalla lingua inglese, in Italia, Francia, Giappone e così via, non sono quelli in cui si va a scimmiottare qualcun altro, che quello sarebbe piuttosto banale. È un po' come andare, non so, in un ristorante italiano all'estero, no? Sapete, è un'esperienza da non consigliare. Ma prendere quelli che sono i lati più interessanti della faccenda e fonderli con la cultura di quel popolo, di quel territorio. CSI, Teatro degli Orrori, fanno esattamente questo. Quindi prendere un cantato che porta da un'altra parte, nel caso di Ferretti, salmodiare, nel caso di Pierpaolo Capovilla, ergersi quasi ad un Carmelo Bene del punk rock, per mischiare e portare il discorso completamente da un'altra parte. Andare a tradurre, non so, i Foo Fighters in italiano e fare scimmiottare le mosse di Dave Grohl sarebbe una cosa terribile, un'eresia. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, e sveglia, mi guarda, non so. C'ha l'odore della terra e odor di grano, sali adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare barba. È leggero il mio pensiero, vola e va. Ho quasi paura che si perda. Cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Lui mi guarda in un passo e già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono? Adesso non lo so, sono solo un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono? Adesso non lo so, sono solo, sono l'ombra del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno, come sempre, sarà. Grazie. In generale ti chiedo come è cambiato anche il modo di arrivare alla musica in questi anni. Prima uno era molto motivato, no, nell'andare a ricercare magari un determinato gruppo, una determinata canzone. Adesso spesso quasi ci si sbatte contro per caso, no? Ci sono tanti input. Sì, la discografia è decisamente morta, questo è chiaro ed esiste, con tutto quello che poi ne consegue. Il fatto di ascoltare musica da un'altra parte vuol dire non su supporto, quindi musica chiamiamo liquida, download, streaming, quello che volete, che dalla maggior parte delle persone qui ascolti musica o su YouTube o Spotify, forse qualche CD in macchina. Tu non ci sono più lettori CD in macchina di base, se uno ce lo vuole lo deve comprare apposta. È un altro modo con delle regole differenti, e secondo me in questo momento ancora non abbiamo troppo chiaro, ma ci saranno appunto delle rivoluzioni a questo punto di vista qui fortissime. Ci sono artisti che prima non potevano arrivare ad un determinato pubblico, che oggi ci arrivano, grazie appunto all'utilizzo di alcune tecnologie. Ma non è sempre rose e fiori in questo modo, anche perché online c'è di tutto. La rete si sta chiudendo sempre più intorno a noi. Quando spuntate appunto, ma penso questo lo sappiate tutti, la possibilità di avere un noi cookie sulle pagine internet, la rete ti sta semplicemente dicendo: guarda, sto prendendo le tue informazioni, così che se te dici digiti domani, non so, tende da campeggio e l'hai cercate 20.000 volte, magari sta cercando tende per il sole, ti arriva la tenda da campeggio. Questo succede anche con la musica. Per chi di voi utilizza Spotify lo sa, Spotify ti consiglia in base a quello che te già hai ascoltato, che conosci. Quindi da un certo punto di vista sì, è vero, c'è una grande libertà, però è come se fossero tutta una serie di cortili in cui poi alla fine giochi sempre un po' nello stesso. Sarebbe, o almeno la tipologia di approccio che ha avuto tutta una serie di generazioni fino a questo momento è stata quella di andare nel negozio di dischi, te ti vai a prendere quel disco e magari intorno trovi una bella copertina e dici: ma questi chi sono? Boh, bello questo figurla, King Crimson, chi sono? Magari 10 anni, 11 anni, ma se ne hai 34, non sai chi sono i Crimson, non devi scrivere assolutamente libri. Però, diciamo, ecco, un esempio molto semplice, vita vissuta che racconto, è quello di quando ero ragazzino, cercavo a 13 anni i dischi dei Foo Fighters, il nome prima era Fleetwood Mac, che per ignoranza completa a quell'età non sapevo assolutamente chi fossero. Quindi a forza di inciamparci numerose volte, tre volte ne cercavo, dissi, vabbè, ascoltiamoci, e lì scoprì una cosa incredibile. O come andare in libreria a cercare un libro e imbattersi in qualcosa che non hai preventivato. Queste sorprese, insomma, sia nella vita, sia nella scelta di cose ascoltare da leggere, sono molto importanti. Quindi vediamo un po' appunto quello che succede. Viceversa, quello che mi sto rendendo conto è questo, che l'approccio invece sbagliato, più che da ascoltatori, da chi fa musica, è quello di cercare un successo immediato, che poi è come tirare un pezzo di giornale nel fuoco, a questa vampata immediata e poi muore subito. Penso a tanti gruppi che magari pensano che talent o luoghi in cui ti danno visibilità immediata servono poi a rimanere da quelle parti là. Di solito non è così. E poi è un'altra, quello è proprio veramente un'altra serie, come se fosse un altro campionato. Ci vuole veramente non soltanto la musica, ma si parla di spettacolo, un'altra cosa. Mentre fare musica per fare musica è ben altro. C'è un video che sicuramente meglio delle mie parole spiega questo. È la prima apparizione di Nirvana del 1991 a Top of the Pops. Guardatela, divertentissima. Sono ragazzi di 20 anni che si trovano appunto in questa trasmissione Top of the Pops, per chi non lo sa, ora non esiste più, ma una trasmissione in cui c'era la classifica, i gruppi suonavano più o meno in playback. Ecco, in Nirvana vanno a fare questa cosa e dicono, va bene, noi veniamo, però si suona dal vivo, non siamo in playback. La produzione dice, manco, non suonate solamente dal vivo. Insomma, si prendono un po' spintoni e alla fine, con ricatto, come sempre appunto fa il sistema in questo caso, decidono di far suonare il gruppo in playback, ma la voce di Cobain sarà dal vivo. Perché se no, tutti i gruppi dell'etichetta, da cui appartengono Nirvana, e si parla da David Geffen Company in quegli anni lì, quindi un'etichetta molto importante, non appariranno più a Top of the Pops. Pressati da queste richieste, Nirvana, vabbè, acconsentiamo, veniamo almeno la voce dal vivo. Molto divertente, Cobain cambia completamente le parole al pezzo, invece di dire load up on your guns, caricate le armi, dice caricatevi di droga e uccidete i vostri amici, mima del sesso orale con il microfono, canta in maniera baritonale, sembra Morrissey e The Smiths, e nel momento dell'assolo di chitarra prende la chitarra e la lancia da una parte, quindi proprio un dito medio contro l'industria discografica. In questo senso si va in televisione a prendere in giro il meccanismo. Tentarono di fare questo Nirvana, e attenzione, questa è la parte della loro storia più importante. Di solito si parla di Cobain che si drogava, che era depresso, si è sparato, bla bla bla, eccetera eccetera, ma i momenti più interessanti di questo gruppo è quando stavano per fare veramente la rivoluzione. Infatti di questo se ne parla sempre poco, a parte in questo libro e in alcuni altri, ma queste sono le cose importanti. Pensate appunto ad un ragazzo magari di 20 anni oggi che farebbe di tutto per essere in televisione. Questi facevano musica nella loro stanzina, sono arrivati appunto a fare a quello che poi è diventato il rock del mondo in quegli anni, e nel momento in cui hanno avuto quella visibilità hanno detto no, noi facciamo musica, quindi vi prendiamo in giro. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Perché proprio i Phil? Perché i Public Image Limited? Allora, John Lydon è chiaramente, no? Johnny Rotten, cantante dei Sex Pistols, e abbiamo scelto di parlare di Peel perché è un gruppo che rimane sempre un po' da qualche parte, ma trovo che Lydon sia stato più lui, dal punto di vista di autenticità, in questo gruppo rispetto ai Sex Pistols. Cioè, abbia portato avanti, c'è un bellissimo libro di Barker e Taylor che si chiama Fake Music, in italiano tradotto musica di plastica, l'autenticità nella musica rock, che parla esattamente di questo, ovvero come spesso quando sei una star, quando sei un personaggio che ormai diventi quell'icona, è difficile scrollarti di dosso. Solo pochissimi riescono a fare questo, basta pensare a Bowie, in parte completamente differente fino a un certo punto della loro carriera, gli U2, cioè riuscire a fare un qualcosa e cambiare sempre in maniera mutevole. Ci sono personaggi in cui una volta che hai quell'etichetta lì non riesci a uscirne, e quindi uno che non è riuscito a fare questo, ad esempio, è Marilyn Manson. Marilyn Manson è morto dentro il suo personaggio da anni, ahimè, purtroppo, per vari motivi. Il motivo perché, ad esempio, quello legato al commercio degli armi negli Stati Uniti. Non so se qualcuno di voi ha visto Bowling a Columbine, in cui la storia è rinomata, insomma, dei ragazzi negli Stati Uniti, come spesso succede, portarono delle armi a scuola, uccisero i loro compagni, insegnanti, e si uccisero anche loro. Fu accusato di questo Marilyn Manson, motivo per cui degli americani, dei ragazzi americani non dicevo, vanno e sparano ovunque perché ascoltano musica di Marilyn Manson, che è una delle più grandi boiate, se possa dire. Però attenzione, da quel momento lì la carriera di Manson è stata completamente segata, perché ha rappresentato esattamente questo. Avesse portato avanti forse un altro personaggio, ha tentato di farlo in qualche modo, non ci è riuscito, e quindi è morto un po' dentro quella cosa lì. John Lydon si è sentito qualcosa, ha cercato di fare cose differenti, ma chiaramente quando si pensa a lui si pensa a Sex Pistols. Quindi volevamo raccontare che c'è stata vita oltre Sex Pistols e tante altre cose, perché spesso appunto si pensa ai musicisti come se fossero una sorta di caricatura, no? Di personaggione bidimensionale in cui non c'è niente dietro, ma sono esseri umani, quindi crescono, cambiano, si innamorano di altra musica e per fortuna fanno cose differenti. Vai. Rock italiano oggi? Rock italiano? Oggi. Una risposta brevissima. Innanzitutto credo sia importante differenziare tra rock italiano e rock in italiano. Il rock italiano è quello da classifica, ci siamo capiti. Il rock in italiano è quello di cui parlavo prima, quello in cui prende alcuni elementi importanti del rock anglofono e ci innesti sopra, o più innesti è bruttissimo, mischi, fai collaborare insieme varie tipologie culturali differenti, dando poi la luce a qualcosa che prima non c'era, di unico, CSI, teatro degli orrori, eccetera, eccetera. Attualmente, qui da noi il rock è sempre stato un argomento un po' particolare. Già la parola rock italiano, senti come sono male, una cosa specifica, rock. Quindi ci sono comunque tantissime band a portare avanti in maniera onesta questo. Personalmente, e questo per me diventa un metro di paragone fondamentale, cioè andare al concerto a vedere quello che succede, un gruppo come i Ministri, ora come ora in Italia, sono tra quelli che fanno del live più, se non altro, più autentico, cioè spontaneo e sincero, non fanno finta di essere. Tra quelli loro decisamente, non perché voglio bene a Dragogna, perché uno scrive veramente bene tante cose, ma perché hanno un modo di rapportarsi appunto col pubblico molto, e sono onesti. Quando un gruppo è sul palco e fa quello che vuole fare, nel senso senza dire altre cose, te ne rendi conto subito, e loro lo fanno, a mio modestissimo parere. Ringrazio ancora Stefano, ringrazio l'Escream. Grazie a te Andrea. E siccome si parla appunto di musica nuova, cioè certo, sì, va bene le cover, ma che palle, fateci sentire un pezzo, che palle nel senso, fateci sentire un pezzo vostro che ci piace decisamente più. Grazie ancora a tutti. Allora facciamo un pezzo del nostro ultimo EP, Lievitazione Naturale, il nostro ultimo EP per l'appunto che abbiamo qui con noi stasera, si chiama Mare Calmo, per chi lo cercasse comunque in rete. Questa è Lievitazione Naturale. Ho visto il sole sciogliersi e ho pensato, è normale solidificarsi sulle strade, affondare. Ho visto il tempo perdersi e ho pensato che fa male solidificarsi in un istante, puoi sparire. Pietra sopra pietra, acqua sopra il pianto che lava questo schifo di prigione senza scampo. Voglio vivere nel bene e nel male, sempre solo a lievitazione naturale. Chiedi ovunque, chiedi altrove, chiedi al mare, distruggersi e disperdersi è un gioco di morale. Soffiava come un vento che non smette di gridare che tutto ciò che perdo non è detto sia reale, ma resta nel profondo, vivo come un sogno, nell'attimo che brucia fra la luce e il suo tramonto. Grazie ancora ad Andrea Gozzi per averci invitato, è sempre un piacere essere qui con te, qui o altrove, insomma. Grazie ancora.